innamori, non c'è mai una scusa. Quando ti innamori, il tuo sguardo pesa. E quindi, quando ti innamori, in fondo tutto il resto è certe sere, certe donne da scordare. Però la musica, stasera ti fa stare bene. Sei lontano e non ti guarda neanche chi vorrebbe, quindi è subito l'amore a sete vuole bere. Sabato domani tornerai a pensare. Lasciano le donne, lasciano le donne, lasciano le donne, lasciano le donne. Sai che a volte ti innamori anche di tre persone. Sì, ti innamori, ma poi non ricordi il nome. La fortuna è un alibi di chi non sa tenere duro. La fortuna aiuta i forti dentro gli altri. E subito l'amore a sete vuole bere. Sabato domani tornerai a pensare. Passano le donne, passano le donne, passano le donne, passano le donne. Però la musica, stasera ti fa stare bene. È sabato e non ti importa di ciò che il mondo dica. E quindi certe sere le fortune passano le donne, anche senza commentare. Passano le donne, certe sere anche le stelle passano le donne, certe sere anche le donne passano le donne. Quanto il tuo amore beve, tutto il resto intorno è lieve. Tutto il resto intorno assente, tutto il resto resta ambiente. Ero se molti anni indietro non giudicava Gesù. Dimmi perché adesso vuoi giudicarmi tu. E subito l'amore a sete vuole bere. Sabato domani tornerà a pensare. Passano le donne, passano le donne, passano le donne, passano le donne. Passano le donne, passano le donne, passano le donne.